meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Beh, abbiamo varie notizie su cui potremmo parlare all'infinito, per esempio il vertice tra Putin e Hollande, ma sono questioni che preferisco lasciare alla cronaca. Oggi vorrei restare invece ancorato all'idea e allo spirito del Thanksgiving, del ringraziamento. Ve ne ho parlato a lungo ieri, la grande festa americana. Siamo in una situazione di ponte, perché il venerdì fra il Thanksgiving e il weekend è così semi festivo. E dunque vorrei dedicare la puntata di oggi, a una storia, come dire, che secondo me è molto in sintonia con il Thanksgiving e con il ringraziamento, e cioè la storia, una storia di sola andata, di qualcuno che ha preso un biglietto di sola andata per venire agli Stati Uniti, soltanto che questo biglietto, lo ha preso quasi 80 anni fa. Sono andato a trovarlo, è un artista, è un pittore, ancora lavora, sono andato nel suo studio e voglio farvi sentire, perché secondo me merita, la registrazione in diretta che ho fatto della chiacchierata con questo straordinario personaggio. America 24. Sono venuto qui a Bethune Street per fare una chiacchierata con Peter Ruta, che è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Peter. Buongiorno Mario. Mi racconti la partenza, perché lei a un certo punto ha deciso di lasciare nel 1936 l'Europa? Ero giovane, dovevo finire le scuole italiane, avevo un grande desiderio di lasciare l'Italia. C'erano le dimostrazioni dopo la conquista dell'Abissinia in favore di Mussolini a scuola. Io mi sono opposto alla dimostrazione, mi hanno picchiato. Tutto questo mi ha colpito internamente e mi decisi di lasciare l'Italia. Partì l'Italia il 28 ottobre e presi il treno per Anversa e partì sul battello La Pendland, un famoso battello per il trasporto di emigranti in America negli anni 20. E quando arrivò a New York, sul transatlantico Pendland, che cosa vide? Che emozione ci fu? Lei era sveglio all'alba quando siete arrivati? Oppure che impressione l'ha fatto sbarcare a New York nel 1936? A quel tempo non si poteva sbarcare durante la notte, perché aspettando l'alba in fronte al monumento della libertà. È una cosa un po' banale e romantica, ma guardando quel monumento veramente mi dà emozione passeggera ma permanente. E dopo tre giorni, attraverso i riferimenti della biblioteca, venni all'International House della Columbia University, dove c'era un centro di accoglienza per studenti stranieri, e vissi là per parecchi anni. Ecco, poi lei, c'è una storia poi molto interessante, perché Ruta resta negli Stati Uniti, poi ritorna brevemente in Italia, poi rientra in America e, siccome era di origine tedesca, viene però lo stesso arruolato nell'esercito e viene mandato al fronte, perché naturalmente lì c'era bisogno di soldati, però non viene mandato in Europa proprio per questo suo passato tedesco e viene inviato invece a combattere nel Pacifico e in particolare a partecipato a delle battaglie nelle Filippine. Ci può raccontare l'episodio chiave di questa sua esperienza di guerra? A quel tempo tutto sembrava normale, essere kamikaze sembrava una cosa come prendere un taxi. Non sembrava una guerra, sembrava più come vivere durante un film. E lei è rimasto coinvolto in varie azioni di guerra. A un certo punto mi aveva raccontato prima che si è trovato al fronte in trincea e a un certo punto ci fu un contrattacco dei giapponesi e lei uscì dalla trincea per andare a raccogliere delle munizioni. Che cosa è successo in quel momento? È una cosa istintiva. Ero in una trincea con un amico, l'unico amico che avevo a quel tempo. Improvvisamente fuoco di granate, fucili automatici e bombardamenti naturalmente di mortai. Dissi al mio vicino, vengo fuori a prendere delle munizioni. A mezzo passo dalla trincea incontrai un giapponese che mi parlò in giapponese, disse Banzai. Cercai di colpirlo con la baionetta attaccata al fucile e mi sparò 4 volte nello stomaco e mi lasciò per morto. Una strana sensazione di vivere la notte tropicale in un paese che non si conosce, su un terreno che è strano, e pensare alla vita passata e pregando di avere qualche anno di più per fare il lavoro che volevo fare, cioè quello di essere un pittore. Ecco, e poi lei questo lavoro l'ha fatto, è diventato un pittore, è ritornato, è stato fortunato a sopravvivere questo incidente drammatico, terribile. Ecco, facendo un balzo in avanti, lei poi rientra in America, poi ha una pensione di invalidità, torna in Italia, passa degli anni tra Ravello, Positano, Capri, in Toscana, e fa molti quadri in quell'epoca, sia di quelle regioni e di quei paesi, di quei posti meravigliosi, che di altri posti. Facciamo ancora un balzo in avanti, poi lei rientra negli Stati Uniti. Ecco, se lei deve riflettere su questo suo biglietto di solo andata, lei è scappato dall'Europa durante il fascismo perché sentiva queste persecuzioni così drammatiche, così forti, così violente, e è stato in punto di morte nel Pacifico. Ecco, oggi lei ha quasi 98 anni. Che cosa può dire a un giovane che oggi sta pensando di venire in America 80 anni dopo il suo arrivo? L'America è un paese che cambia per il meglio. È molto più aperta intellettualmente. C'è una gioventù che è molto interessante. C'è anche una gioventù molto interessante in Europa. Ma qui ho il senso che c'è un qualcosa d'altro, di nuovo, del futuro, che spesso in Europa, nei paesi più vecchi, non c'è più. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho sempre con me i microfoni di America 24, Peter Ruta. Peter, che canzone vogliamo scegliere da proporre ai nostri ascoltatori? New York, New York, da una vecchia rivista del 40 che poi è diventato un film famoso con Gene Kelly e Frank Sinatra, e dava un'impressione di New York di quel periodo. Era un'impressione di un futuro meno commerciale e più idealistico. Bene, allora, scelta da Peter Ruta, direi un balzo nel passato. New York, New York on the Town, un classico con Frank Sinatra and Company. Che è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24.